io da una parte sono preoccupato e dall'altro sono rassicurato. Sono preoccupato per i decenni e decenni di stasi, di incuria e di abbandono e di degrado che ci sono alle spalle. Sono piuttosto ottimista perché so che al Palatino i lavori sono cominciati, alla Domus Aurea stanno per cominciare e quindi diciamo che c'è una stagione nuova. Naturalmente questa stagione per svilupparsi e per consolidarsi ha bisogno di un minimo di tempo. Nel frattempo i crolli possono avvenire sul Palatino, possono avvenire sull'Esquilino, possono avvenire sulle mura aureliane, possono avvenire sugli acquedotti, insomma sono strutture molto antiche, sono dei colossi, ma sono dei colossi che ormai hanno i piedi d'argilla. Quindi ci vorrebbe una grande campagna di prevenzione, cioè di monitoraggio e di prevenzione, per cui con piccoli interventi noi evitiamo i grandi disastri, perché i piccoli interventi di prevenzione costano poco, invece i grandi disastri, i crolli, poi per rimediare, a parte il fatto che non si rimedia, perché una cosa poi distrutta resta distrutta, ma insomma per rimediare poi servono molti più denari. Quindi c'è un'emergenza a Roma che giustifica, a mio avviso, l'uso di commissari. Penso che in questo caso si tratti di un allarme vero, dimostrato dai fatti, e quindi a questo punto non c'è che continuare nell'attuale indirizzo di messa in sicurezza dei punti più critici, per poi entrare nel monitoraggio più normale, nella manutenzione più normale.